A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, meno di 5 ore finalmente alla conclusione del calciomercato che ha sfiorato e sta sfiorando anche tratti di ridicolo, non solo in Italia come la storia di Berbatov irresistibile, perché a quanto pare Berbatov la trottola non ha finito di girare. Sembrava fatta con il Fulham, invece forse adesso va al Tottenham. Questo è veramente ridicolo, questa storia. Poi c'è Del Piero, avete sentito nel giornale radio con il club australiano, il Sydney Sky Blue. Io ero molto contento che, per lui, perché insomma, l'ho anche invidiato un po' quando ho letto questa notizia. Va a giocare comunque molto lontano, in un paese molto bello. Sydney Sky Blue, che Australia, quindi nuova esperienza di vita. Però c'è stato il fratello di Alex che ha rallentato tutto dicendo sì, beh, c'è una trattativa, però non c'è ancora nessuna firma, se ne parlerà lunedì. Quindi Sky Blue, state buoni, perché Del Piero non è detto che arrivi. Poi ci sono i vari intrecci tra Floccari, Gilardino, Boriello, che dovrebbero cambiare la loro maglia, ma si vedrà. Tutto questo lo scopriremo alle 19 in maniera ufficiale. Intanto vi do, freschissimi perché appena stampati, i gironi di Europa League. All'Udinese, l'Udinese non è andata in Champions League, ma le è toccato un girone che somiglia tanto a un girone di Champions, perché si è beccata il Liverpool, gli svizzeri dello Young Boys e l'Anzi di Eto'o, mentre per il Napoli ci sono PSV, Dniepro, squadra ucraina, e gli svedesi dell'AIK. L'Inter prende Rubin Kazan, vecchia conoscenza, il Partizan Belgrado e il Neftchi, squadra dell'Azerbaigian. Non è semplicissimo nemmeno sulla carta del girone della Lazio, Panathinaikos, Tottenham e Maribor. Tottenham magari con Berbatov, questo lo vedremo. Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport, buonasera, buongiorno e grazie. Salve, un augurio a tutti, un saluto a tutti. Sta finendo finalmente. Mercato senza soldi, ma davvero, dicevo prima, con qualche punta di ridicolo. Beh sì. Ma c'è qualche eccesso a tutti i livelli, ma è un eccesso dettato dalla crisi. Anche il fatto che molte società si riducano a due giorni con una mentalità un po' superata, secondo me, perché ritengono che magari negli ultimi due giorni si possono fare degli affari, ma magari potrebbe anche esserci l'altra faccia della medaglia, cioè quella di farsi prendere per il collo oppure di trovare veramente qualche cosa di poco valido per rinforzare le proprie rose. Però tutto sommato un mercato di secondo piano, non un mercato di grandissimi colpi, un mercato che è servito a molte squadre per rifinire alcune rose, ed è un mercato che, all'insegna di quello che abbiamo scritto anche noi sul Corriere dello Sport, di un anno zero del calcio, sì. E questo bisogna farlo comprendere bene anche ai tifosi. Sarà un anno di rivoluzione, chiamiamo così, ma anche forse di nascita, perché magari non è che tutti i mali vengano per nuocere, nel senso che un'attenzione al fair play, un'attenzione a qualsiasi singolo giocatore si acquisti è importante, perché alla fine che cosa succede? Succede che emergerà sempre di più la differenza di gioco, certo. La differenza di solidità, di impostazione di una società, il gruppo, insomma, questi potrebbero essere degli elementi che anche in campo europeo potranno avere un loro valore, perché su questa strada, magari con qualche talento in più, sono impostate quasi tutte le grandi squadre europee. Certo, e io mi auguro che le nostre quattro, Udinese, Napoli, Inter e Lazio, giochino in maniera molto seria questa Europa League che per anni abbiamo snobbato in modo meschino, giocandola come la Coppa Italia, senza. Ma questo input, secondo me, deve arrivare dai vertici societari, perché mi piacerebbe vedere come all'estero stadi pieni e squadre competitive in campo, anche perché abbiamo gironi tutto sommato intriganti, direttore. Lo so, però noi lo sappiamo, siamo fatti così, cioè per noi conta il campionato, cioè qualunque cosa, a volte veramente a fine campionato ci si accapiglia per raggiungere una posizione, come se si dovesse conquistare realmente una posizione in Champions League per arrivare in Europa League oppure appunto nei preliminari, e poi la competizione viene snobbata, è vero. Viene sdobbata perché poi non si hanno rose adeguate, si ritiene che si paghi troppo il doppio impegno sul campionato, e quindi alla fine quello che conta è il campionato, quindi per alcune squadre la salvezza, per altre invece una posizione importante nell'alta classifica, se non per lo scudetto, e quindi il doppio impegno. Adesso nella gestione del doppio impegno dobbiamo vedere anche la Juventus, per esempio, perché ha vinto uno scudetto senza averlo, adesso lo avrà, dobbiamo vedere un pochettino tutte le squadre, sappiamo quanto abbiano pagato in passato, mi è rimasta impressa una Sampdoria che è andata addirittura in Serie B per pagare anche un impegno europeo, quindi è vero anche l'altro aspetto, bisognerebbe magari comprendere che diciamo queste coppe hanno un valore, se invece non lo hanno, beh, allora si faccia un cambiamento a livello di web. Certo, certo, anche perché guardando i quattrini che si incassano con queste coppe sono davvero briciole rispetto alla Champions League. A proposito di Champions, ricordo il numero verde, perché è per voi, 800240024. Alle nostre due poverette ci presentavamo lì col minimo sindacale, non è, per fortuna non è andata malissimo. Milan prende Spalletti, prende l'Anderlecht, prende il Malaga. La Juventus, che partiva dalla terza fascia, avrà la sua grande partita con il Chelsea di Di Matteo, quindi abbiamo due confronti tra allenatori italiani, poi Shakhtar e questo Nordjylland non mi sembrano avversarie irresistibili. Beh, assolutamente un sorteggio benevolo. Benevolo con qualche punta interessante, diciamo, di confronto, che appunto per la Juventus è soprattutto quella di campione d'Europa, però diciamo la verità, null'altro, quindi altri due impegni abbastanza facili, abbastanza comodi, che appunto possono aiutare moltissimo la Juventus, soprattutto per quel che dicevamo prima, appunto del doppio impegno anche in campionato. Stesso discorso per un Milan ridotto in questo momento ai minimi termini. Io apprezzo il coraggio e la fiducia di Galliani, che dice che il Milan combatterà per lo scudetto, però insomma al momento non mi sembra una squadra attrezzatissima per quell'obiettivo, no. E mi sembra anche una squadra un pochettino sottotono anche per questo impegno europeo. Allora, propaganda di partito, vorrei sentirlo insieme a te Galliani, che quello che ha detto nella notte, perché mi è sembrato abbastanza sibillino, vorrei un tuo commento prima di salutarti. Galliani: playmaker davanti alla difesa, secondo noi è uno dei migliori d'Europa, l'abbiamo preso per questo motivo. Libera Montolivo, che ritorna a fare la mezzala. Noi pensiamo di aver fatto una buona ultima settimana, perché Niang è bravo, secondo noi Boyan è bravo e De Jong è bravo. Tutti i giocatori che si prendono sono desiderati dal presidente, dal sottoscritto, da Allegri e da quanti fanno parte del Milan. Quindi adesso però il signor Allegri si deve preoccupare, perché l'obiettivo del terzo posto non è più quello, adesso deve giocare per lottare, per vincere, come abbiamo fatto negli ultimi due anni. Direttore De Paola, questo signor Allegri si deve preoccupare, che cosa vuol dire? Beh, insomma, ecco, spero che poi ci sarà un confronto più chiaro fra il vicepresidente e l'allenatore, perché insomma certe cose andranno chiarite, perché magari un po' di propaganda ci sta, e conosciamo tutti Galliani quanto sia legato, al di là del suo ruolo dirigenziale, da appassionato tifoso al Milan. Ma dare questa croce o questa responsabilità enorme sulle spalle di Agnelli, di Allegri, dopo avergli rivoluzionato la squadra in questo modo, dopo avergli tolto tutti i grandissimi campioni, insomma mi sembra eccessiva. Ecco, se il Milan si posiziona tra le prime tre è già un grandissimo risultato. Chiedergli di lottare per lo scudetto forse è solo una questione psicologica, perché il Milan negli ultimi anni è stata abituata soltanto a combattere per il primo posto, e probabilmente un cambio di tensione e di attenzione su quello che è l'obiettivo primario degli ultimi anni potrebbe procurare dei danni maggiori. Questo può essere, diciamo, l'obiettivo di Galliani, che insiste su una frase un pochettino esagerata in questo momento. Stavo dando un'occhiata a quanto valgono Champions League ed Europa League dal punto di vista economico, poi vi illustro tutto, ma la differenza, nonostante sia quasi il doppio il montepremi totale stanziato per l'Europa League rispetto all'anno scorso, 208 milioni contro 105, La differenza è abissale. Preferisco però prima parlare con gli ascoltatori. 800240024, messaggi 349-238-6666. Francesco, provincia di Viterbo, è il primo. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, speriamo che finisca presto il calcio mercato. Beh, guardi, speriamo che finisca presto, basta fare i conti, finisce alle 7 di stasera, sì, sì, no, sono le 14:17. In Italia dura 365 giorni l'anno, perché sì. basta aprire un giornale qualsiasi, si parla sempre di calciomercato. Sarà che allora, interessa, no. Francesco? Sarà che sì, interessa. Purtroppo. Allora, no, una mia domanda. Allora, primo, chi comprerà più Berbatov? Perché alla fine un giocatore così penso che abbia bruciato tutte le sue credenziali. Secondo, c'è una regola che i giocatori che vanno a fine contratto possono liberarsi a parametro zero. Mm. Ora, questi giocatori usano questa regola, questa clausola, per farsi aumentare il contratto, l'ingaggio, certo. L'ingaggio sì, dalla squadra per cui giocano. È l'esempio di Akite, ma anche di altri, io seguendo la Lazio, di Akite. Sì. Cioè, mi sembra perlomeno un cappio in mano a questi ai giocatori nei confronti della società. Sì. Poi, quando le società li aspettano perché si fanno male, perché, come è successo appunto a Akite, non parlano di tagliarsi lo stipendio, è successo penso solo con Tommaso. Sì, sì. Quindi, cioè, questa è una regola che penso in un futuro si dovrà rivedere, se dobbiamo vedere un discorso di fair play finanziario. Sarà difficile, è vero che è un discorso ambivalente, perché molto spesso sono le società a fare pressione sul giocatore per ottenere il rinnovo del contratto. Mi viene in mente come ultimo il caso di De Rossi, ma ce ne sono molti, no? Perché sanno che comunque vanno in scadenza e dunque fanno pressione sul giocatore per il rinnovo. È chiaro che lì è un gioco a rialzo ed è chiaro che il rischio di il rischio di perdere un giocatore importante magari a parametro zero è elevato, dunque è un gioco delle parti che funziona così. Non vedo grandi vie d'uscita, in tutta onestà, Francesco, a questo. Quindi tu sai quando scade il giocatore, se sai che il giocatore è importante tenti di rinnovarlo, se no lo cerchi di cederlo al momento opportuno prima che scada il contratto. Gianmario, provincia di Brescia. Buongiorno, la ringrazio. Grazie a lei. Una mia domanda è per me, se riesco a capire qualcosa della squalifica che gli hanno dato a Conte, perché sui giornali non riesco a capire niente. Allora, lui è stato squalificato per 10 mesi, sì. Va sul campo a allenare la squadra, in più gli hanno fatto questi vetri oscurati dove può passare dei foglietti. Ma sì. Se uno è squalificato, ma allora ci stanno prendendo in giro, gli fanno pagare una bella multa di 600.000 euro e gli tolgono la squalifica e quei soldi lì li mandano giù i terremotati. Mandano giù i terremotati. No, vale, prego, di nulla, però il discorso è che i regolamenti sono questi, letta la legge Gabbato lo Santo, cioè sappiamo che gli allenatori squalificati per 1, 2, 3 giornate, 10 mesi possono comunque lavorare con la squadra in settimana e sedersi all'interno dello stadio, quindi o cambiamo totalmente questa legge oppure viene aggirata nelle maniere più fantasiose e creative possibili, come compresa quella dei vetri oscurati. Ma vale per tutti questo, cioè non vale soltanto per Antonio Conte, vale per tutti gli allenatori squalificati. Fabrizio D'Affano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che non sono molto d'accordo su questo pessimismo intorno alle squadre italiane in Champions League. Ah no? Perché non è detto che devono per forza vincere le squadre che hanno i nomi. Basta vedere quello che è successo lo scorso anno, la scorsa edizione. Il Chelsea non era sicuramente messo davanti a Barcellona, Real Madrid, Manchester, forse anche qualcun altro. No, però i giocatori, perciò, mi perdoni, ce li aveva perché... Però io credo che comunque se uno ha una buona acquisizione di gioco, è allenato bene, secondo me Juventus e Milan sono squadre che possono arrivare benissimo in semifinale, non diciamo vincere. Le prime quattro squadre, è logico che... Io sono felice del suo ottimismo, mi piace sentire delle telefonate piene di ottimismo, poi sulla carta il 31 di agosto vale tutto. Io il Milan non lo vedo attrezzato neanche per competere a buon livello nel nostro campionato. La Juventus può fare un po' di strada in Champions League, però secondo me è comunque fuori, cioè non sono alla sua portata squadre come Real, Barcellona, lo stesso Manchester City, le solite, insomma, nemmeno lo United a mio parere, o lo stesso Chelsea con cui si confronterà. Cioè, secondo me sono squadre cui manca qualcosa, Fabrizio, sono squadre cui manca qualcosa per essere realmente competitive in Champions League. Poi un po' di strada la Juventus la potrà fare, diciamo che l'ottavo di finale è senz'altro la sua portata, il quarto sarebbe già un grande risultato, di lì in poi mi sembra un volo pindarico. Andrea, Como. Sì, grazie, buongiorno. No, mi ha risposto già praticamente, perché volevo chiedere un ipotetico gioco dove collocava la Juventus tra le prime sei, le prime otto, e praticamente ha già risposto. Io personalmente, dopo le due spagnole, il Manchester City, sì, il Chelsea per l'esperienza, il PSG per i suoi nomi, il Manchester United per l'esperienza, poi io squadre più forti della Juventus non le vedo. Sì, settima, però se poi giochi la partita della vita nei quarti... Ah, certo, certo. No, no, no, ma sono d'accordo. Però mi sembra che il traguardo sia quello, no? Mi sembra che il traguardo sia quello dei quarti di finale, quindi immaginare qualcosa di diverso. Sappiamo che insomma la Champions League è un torneo che brucia tutti in fretta, in cui è impossibile avere dei... così. A me fa sempre molto ridere, mi faceva sempre molto ridere in passato quando al Milan si diceva l'obiettivo è la Champions League, o quelli che dicono l'obiettivo è la Champions League, sbagli in mezza partita e l'obiettivo della stagione va a farsi friggere. Dunque è un torneo molto aleatorio, così come tutti i tornei in cui si gioca un numero ristretto di partite. Secondo me realisticamente il traguardo della Juventus può essere quello del quarto di finale. Poi vediamo. Roberto, Trieste. Eccomi qua. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, anche a me, premessa, anche a me quella di Galdiani su Allegri mi sembra un avviso un ultimo avviso. Sa quando si fa per un richiamo ufficiale prima di licenziare qualcuno? Sì. Il signor Allegri deve vincere. Sì, vabbè, ma con che squadra, con che gente? Cioè, hanno già deciso di cambiarlo, probabilmente. Comunque, la mia domanda a lei, che è un nome tutelare, che è ironica, mi spiega a cosa servono gli agenti UEFA? Cioè, se io devo vendere all'interno dell'Europa, ok, un bene, una merce, mi metto d'accordo con l'altra società in Olanda, in Francia, in Germania, gliela vendo questa merce, nella fattispecie il calciatore, senza bisogno di intermediari. Che cosa fa l'agente UEFA? Cioè, a che serve? Guardi, dopo abbiamo in programma un collegamento con uno che ci può dare una risposta più precisa, anche tecnica. Sono degli intermediari, dei mediatori che fanno da trade union tra squadre di paesi diversi. Poi sugli aspetti tecnici e sul lavoro di questi mediatori la rinvio a più tardi, a dopo le 14:30. Massimo da Brindisi. Buongiorno. Dica. Senta, io solo un'osservazione, poi vorrei un suo commento. Per il signore che ha detto prima, come può un allenatore squalificato stare ancora lì ad allenare oppure andare dietro i vetri oscurati e passare i foglietti? L'osservazione che faccio io è, ma come mai ancora, dopo aver letto le carte e aver letto le sentenze, ancora non ci hanno detto perché hanno squalificato Conte? Vorrei un suo commento su questo. Dunque, per quanto riguarda la prima parte, vale la risposta di prima, cioè Conte e tutti gli allenatori squalificati fanno ciò che i regolamenti consentono. Conte è stato squalificato per omessa denuncia relativa a un tentativo di manipolazione di una partita, giusto o sbagliato che sia. Adesso c'è il ricorso al NAS e vediamo che cosa dice quest'ultimo grado di giudizio. Alessandro da Milano. Salve. Io volevo dire che secondo me, ad esempio, la Juve, se aveva un bomber tipo Cavani, poteva puntare a magari non a vincere, ma a essere nelle prime ma ha preso Bernard, ma non ce l'ha Cavani, non ce l'ha. Infatti io non riesco a capire Marotta, fino adesso che cosa ha fatto la Juve, perché ha continuato a spendere dei soldi, comprare gente come Krasi, Celia, un sacco di gente che avrebbe speso i soldi. Sì, ha preso anche Alessandro, però mi perdoni, ha preso anche Pirlo, ha preso anche qualche altro giocatorino che ha permesso alla Juventus di vincere l'ultimo scudetto, o mi sbaglio? Sì, però è due anni che aspettiamo un grande giocatore, però quest'anno dai tempi di Felipe Melo non è che non li spende i soldi. La Juve in passato li ha spesi malissimo, quest'anno mi sembra proprio di no, perché se lei mi dice che i soldi per Asamoah Isla sono stati spesi male, io non sono assolutamente d'accordo. No, però aspettiamo questo attaccante da una vita, adesso cosa l'hanno preso a fare questo qui adesso? Cioè, secondo me è inutile. Quelli che c'erano li hanno tenuti. No, ma la mia sensazione, ma l'ho detto nei giorni scorsi, è che Matri in questo momento non sia più così vicino alle idee di Conte. Cercavano una prima punta e hanno preso Bender promettendo che a gennaio arriverà anche questo Llorente quotatissimo, che costa una montagna di soldi, che non è più nemmeno giovanissimo, che il mio amico Filippo Maria Ricci dalla Spagna mi dice essere un grande giocatore. Io ho qualche dubbio e me li tengo sul fatto che sia un top player, poi per il resto vale il discorso generale. Cioè le nostre squadre, nemmeno la Juventus, possono permettersi di andare a fare la battaglia con certi club europei dal punto di vista anche e soprattutto degli ingaggi che questi sono in grado di versare ai giocatori. Cioè è molto difficile andare a prendere un top player al Manchester City, allo United, al Barcellona, al Real Madrid, al Paris Saint Germain, al Manchester City. Da questi vai a prendere De Jong. Meno di 4 ore e mezza ci siamo levato dalle scatole del calcio mercato. Fabrizio Ferrari, procuratore nostro amico, ciao. Hai perfettamente ragione, non lo sa più nessuno questo. Ce lo siamo tolto dai maroni, il calcio mercato e tutte le sue storie anche molto buffe. Senti, prima un ascoltatore mi ha chiesto a che cosa diavolo servono gli agenti UEFA. Gli agenti FIFA. In realtà servono moltissimo, innanzitutto perché lo sei. Innanzitutto perché lo sono, sì. Ecco. Secondo punto perché altrimenti non ho più un lavoro, devo cercarne un altro. Sì. Seconda cosa perché in realtà la gente serve a proporre un giocatore, a farne capire le condizioni economiche sia del trasferimento sia della parte contrattuale professionale del giocatore, e poi servono per la mediazione, perché in realtà fra club ci si scanna. Quindi non è proprio un mestiere così insulso. In realtà ci sono, come in tutti i mestieri, quelli che lo fanno bene e quelli che lo fanno male. Certo, ma non potrebbero parlare direttamente le società? Cioè questa mediazione cosa serve? Questo succede praticamente sempre quando ci sono i contratti all'interno di una lega, cioè in Serie A i club parlano fra di loro. Quasi mai il procuratore viene chiamato quando c'è la negoziazione fra club. Il procuratore viene chiamato quando ci sono delle trattative con squadre estere, o soprattutto magari l'agente stesso o un agente mediatore prova a vendere il giocatore a una squadra estera. Certo. Senti, bellissima quella di Berbatov, che adesso potrebbe finire al Tottenham dopo aver fatto le visite mediche al Fulham, e un giro a Milano e uno a Torino e uno mancato a Firenze. C'è qualcuna che ti è piaciuta di più o questa è la migliore? Ma mi dicevano alcuni giornalisti che è un po' la caratteristica di Berbatov quella di fare il colpo a sorpresa, perché sembrava di capire che prima di firmare il Manchester United volesse andare in altre 3 squadre, però l'ho vissuto un po' in diretta perché ero a Londra e sentivo un po' gli umori in diretta anche proprio di Berbatov, e mi sembrava di capire che ci fosse un po' di confusione. Sì, confusione ce n'era e come, soprattutto la sua, sì, di confusione, sì, perché sì, non è che avesse deciso esattamente cosa fare. No, poi perché quando era Monaco di Baviera, insomma, ha tentennato un bel po'. Sai, quando si ha tentennato un bel po', sai, poi prima di andare al Bayer Leverkusen doveva andare a Lecce, quindi è proprio una sua caratteristica. Poi c'è chi dice che la moglie voglia andare a Londra, non so se hai dato un'occhiata alla signora Berbatov. No. Fallo. Ah, senti, okay. Senti, sta parlando Allegri, che ha detto: se non avessi avuto entusiasmo sarei andato via dal Milan. Conferenza stampa che precede la partita di domani. Le parole di Galliani nella notte che avrai sentito, il signor Allegri adesso deve vincere perché gli abbiamo preso i giocatori, mi suonano un po' strane, cioè mi sembra un Allegri un po' con le spalle al muro. Guarda, io credo che il Milan, per quanto riguardava la forza economica, non potesse fare di più di così. Forse riuscirà a portare un terzino, cioè magari potrebbe essere Antonelli, che ha già giocato nel Milan, che ha fatto tutta la sua carriera nel Milan primavera, o chissà che cosa, però più o meno la squadra è questa. Avevo sempre detto che aveva bisogno nettamente più di un mediano che di un trequartista alla Kaká, perché insomma di quel ruolo, in quel ruolo lì sono pieni, serviva una prima punta e gli serviva un mediano per puntellarla insomma la squadra, e credo che abbiano fatto un ottimo acquisto con De Jong, però io credo che insomma sia una squadra non assolutamente per combattere per il titolo. Per chiudere, Fabrizio, cosa succede nelle ultime 4 ore spiccioli? Secondo te? Cosa succede? Noi, io adesso in questo momento sono in pausa e mi ributto all'interno del mercato fra 15 minuti e secondo me un colpo finale c'è sempre, storicamente, e credo che anche quest'anno qualcosina succederà. Poi io lavoro sull'estero e quindi continuerò fino a mezzanotte. Qua invece i cari ragazzi italiani alle 7 hanno finito tutti. Beati loro. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Ciao Fabrizio Ferrari. Roberto da Milano, Gabriele da Verona, Alessandro da Vicenza, 800 24 00 24, numero verde. Allora, vi do due numeri prima di parlare con voi, cari amici. 754,1 milioni di euro complessivamente stanziati per le 32 squadre protagoniste della fase a gironi di Champions League, mentre in Europa League non sono 754 ma 208. Champions League, la partecipazione ai gruppi, 7,2 milioni di euro attraverso il sistema di distribuzione, 3,9 milioni come bonus di partecipazione, quindi presi subito, 3,3 milioni per le 6 gare disputate nella fase a gironi, 5.500 euro a partita. Mentre la partecipazione ai gruppi di Europa League vale 1,3 milioni. Mi sembra che la sproporzione, bastano questi numeri per capire come la sproporzione sia pazzesca. Vado a vedere le semifinali, Champions League vale 4,2 milioni, per l'Europa League vale 1 milione, c'è meno disavanzo per la vittoria finale, 9 contro 5 milioni. Beh, insomma, sono numeri che dicono come ci sia grossa distanza economica tra i due tornei. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Due cose molto veloci. Il primo era, diciamo così, il posizionamento della Juventus in questo momento in Champions League. Posto che mi sembra che abbia un'organizzazione di gioco che la rende forse, la mette al terzo o quarto posto, secondo me solo dopo il Manchester United e il Barcellona. Real Madrid e il Manchester City non mi sembra che cambiano tutta questa organizzazione di gioco. E quindi qualcosa a sperare un po' di più, oltre i quarti, può secondo me anche sperare. La seconda cosa era relativamente a una visione prospettica del calciomercato. È vero che in questo momento gli italiani non possono più permettersi un calciomercato spumeggiante, però è anche vero che nei prossimi 2 o 3 anni secondo me nessuno se lo potrà più permettere. Primo perché le spagnole stanno, diciamo, avranno i loro bei problemi, visto che stanno quasi fallendo. E le inglesi, anche le inglesi, non è che abbiano tutte queste grandi, diciamo così, investimenti. No, però c'è questa variabile dello sceicco che arriva e spende quello che vuole. Però poi succede anche come è successo col Malaga, che vabbè, funziona Malaga a volte per un anno. No, a Malaga mi è sembrato un esperimento minore. Io sto guardando a ciò che succede a Paris Saint-Germain e al Manchester City, più che altro. Che però non sempre funzionano, come è successo per il primo Real Madrid di Perez. Per il Real Madrid di Perez, il capostipite di questi signori molto danarosi, innamorati del calcio, è Roman Abramovic, e finora ha funzionato. Poi sono curioso anch'io di vedere come si regoleranno con la storia del fair play finanziario, che è un concetto per me ancora molto nebuloso, io confesso. Quanto alla Juventus, lei è molto ottimista, anche lì proviamo ad esserlo. Sottolineava prima un ascoltatore via SMS che i bookmakers, che di solito ci capiscono, la collocano al 7° posto nel ranking della Champions League, e mi sembra 7° o 8° posto una collocazione realistica per la Juventus adesso. Gabriele da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare semplicemente due osservazioni. Una riguarda la Juventus, anche se non sono suo tifoso. Ricordo a memoria che la Juventus di Lippi, che riusciva ad arrivare in finale negli anni 90 in Champions League o a vincere addirittura, non aveva chissà quali top player in squadra, ma era, vinceva più che altro la squadra e non i singoli. L'altra osservazione è che secondo me oggi il calcio italiano ha una grande opportunità, cioè avendo perso una squadra in Champions League che va praticamente in Europa League, sarebbe ottimo in questo momento cercare di vincere l'Europa League, certo, per guadagnare quei, certo, punti, certo, per tornare ad avere la quarta squadra, così come ha fatto la Germania, così come ha fatto il Portogallo, ma è evidente è una grande opportunità, è una ma certo che è una grande opportunità, è una grande opportunità, ma non solo per il ranking UEFA, è una grande opportunità per il calcio italiano, perché scordiamoci, a parer mio, al di là dell'ottimismo, di vincere la Champions League, mentre in Europa League secondo me, ad esempio, Inter e Napoli possono fare un grande torneo e arrivare fino in fondo, quindi dovrebbe essere un obiettivo primario, però bisogna poi vedere come la pensano le società che danno questi input, perché è da lì che arriva l'ordine o comunque l'invito o comunque l'abbrivio per giocare in maniera seria questo torneo, che serio deve essere e che seriamente dovrebbe essere preso. Alessandro, Vicenza. Ciao Alessandro. Niente, volevo solo dire, premetto che siete molto simpatici e anche parlate in maniera competente, eccetera. Grazie. Che è giusto, diciamo, parlare per fare previsione, però voglio fare tipo un giochino. I miei preferiti. Sì, tipo 31 agosto 2011. Sì. Previsioni Radio 24. Sì. Allora, Juventus arriverà a quarta, quinta. Sì. Il campionato lo vincerà il Milan tranquillamente. Mm. La Champions League è una cosa tra Real Madrid e Barcellona. Mm. Questo per dire che insomma è giusto parlare, fare previsioni dopo. Sì, sì, ma anche, anche scherzarci sopra. Io non ricordo se quei pronostici li avevo fatti io, magari sì, magari no, ma comunque sì. Non credevo ad una Juventus scudettata. Certamente il Milan mi sembrava la squadra più attrezzata, e sono anche oggi convinto che fosse la più attrezzata l'anno scorso per vincere lo scudetto. Il Chelsea era abbastanza impronosticabile, Real Madrid e Barcellona mi sembravano sopra tutte le altre. Poi i pronostici sono appunto un gioco, e di giochi ne vorrei fare tanti, ma che Vangelo, anzi io sono primo a divertirmi quando li sbaglio i pronostici, faccio un po' lei, non ne becco uno neanche se vado a leggere il giornale del giorno dopo, faccio un po' lei, anzi è più divertente quando li si cannano in maniera così evidente. Prima di tornare agli ascoltatori, se ce ne sarà tempo, ma credo di sì, 800 24 00 24, io non dimentico e non dimenticherò mai che il venerdì su Radio 24 è un giorno da basket, nemmeno da lunedì, quando avremo un nuovo titolo per questa rubrica sportiva, avremo una nuova confezione sonora che trovo molto, molto bella, molto aggressiva, molto divertente. Avremo nuovi contenuti, però il basket avrà sempre diritto di cittadinanza, ed è sempre un piacere parlarne con Stefano Valenti. Ciao Stefano. Ciao Carlo, buon pomeriggio a te. Da quanto tempo l'Italia non vinceva 5 partite in fila? È una bella domanda, guarda, anche perché ultimamente avevamo sicuramente perso l'abitudine, dobbiamo risalire credo a qualificazioni del 2002 se non sbaglio, perché ai mondiali del 2006 ci fermammo a 4, insomma è un dato interessante per gli storici, ma la cosa veramente importante è che questa è una nazionale a caccia di vittorie, non solo e non tanto per la qualificazione, quanto per abituarsi e riabituarsi a vincere partite in fila, che è stata anche un po' una delle problematiche degli ultimi tempi. Esattamente. E che cosa è cambiato? Ma è cambiato, secondo me, nulla di eclatante. Cioè, mi spiego, c'è una serie di componenti che possiamo analizzare in queste 5 vittorie sulle 5 partite giocate. Io direi intanto che Pianigiani lavora con questa squadra per la terza estate consecutiva, sì. E questo ovviamente è un valore aggiunto a quello che può aver fatto il primo anno o l'anno scorso, purtroppo male agli europei. Il girone di qualificazione è sicuramente abbordabile, mentre era molto più complesso nel 2010, quando trovammo Montenegro, quando trovammo Israele, la stessa Finlandia, la Lettonia, ed è una squadra che, come dire, è nata con meno incertezze, perché è innegabile che nel 2010 Pianigiani non aveva Gallinari e il suo impatto ormai lo stiamo vedendo. È innegabile che negli europei del 2011 i big three italiani non trovarono un dialogo comune, si sovrapposero forse piuttosto che collaborare. Questa volta ne mancano due. Io tra l'altro ci sono un po' di polemiche, un po' di critiche sui due assenti. Io però non posso dimenticare che comunque Marco Bellinelli ha dato il supporto alla nazionale dal 2006 rispondendo per primo, e poi anche Andrea Bargnani c'è sempre stato fondamentalmente e anche con numeri importanti. Però è indiscusso che Danilo Gallinari in quest'estate si sta prendendo in mano un gruppo che lo sta seguendo, e al tempo stesso è un gruppo che lui, possiamo dire, foraggia con il suo altruismo, la sua classe, il suo desiderio di fare squadra. Possiamo dire che è paradossalmente una squadra comunque più equilibrata quest'Italia rispetto alla ricerca dei tre che tolgono ogni volta le castagne dal fuoco, e quindi con una responsabilizzazione evidente da parte degli altri, che mi è sembrato il principale vizio, il vizio capitale della nazionale degli ultimi anni. Guarda Carlo, è innegabile che uno dei valori aggiunti che Pianigiani si ritroverà la prossima stagione, quando lavorerà per gli europei, è la crescita di altri protagonisti, perché qui ovviamente noi vediamo Gallinari, però credo che anche Poeta sta facendo dei passi avanti dopo essere stato uno, diciamo, degli incompresi della gestione di Pianigiani, con responsabilità e con logiche reciproche. Datome sta emergendo. Datome giocò poco più di 30 minuti in tutti gli europei dell'anno scorso e di fatto era il dodicesimo giocatore della squadra o giù di lì. Quindi direi che l'eredità di queste qualificazioni, dando ovviamente per scontato il passaggio del turno, ci mancherebbe, è proprio questa presa di coscienza collettiva che ognuno di questi giocatori può dare qualcosa in più alla nazionale, ma al tempo stesso non si può ovviamente pensare che quando il livello dell'asticella si alzerà tantissimo agli europei, perché l'anno scorso nel girone dell'Italia c'era la Francia e la Serbia, solo per fare due nomi, e la Germania e Nowitzki per fare il terzo, allora l'anno prossimo agli europei, fin dalla prima fase, è impensabile che l'Italia non possa e non debba aver bisogno di Bellinelli e Bargnani. Tanto domenica sfidiamo i cechi a Trieste alle 20:30 alla ricerca della sesta vittoria consecutiva. Stefano, un'ultima cosa sul campionato. Davvero Milano è nata per vincere quest'anno? Con un mercato che invece, quello del calcio, per fortuna sta chiudendo, quello del basket è ancora un po' confuso. Sì, quello del basket è confuso perché fondamentalmente sono confusi, molto confusi i budget della società, e quindi sì, c'è anche un po' la convinzione che poi magari il buon colpo di mercato si può fare anche più avanti, perché insomma poi bene o male ci si assesta, e questo è un campionato che inizia tra un mese. Milano, se è nata per vincere, forse è il DNA dell'Olimpia che è nato per vincere. Di squadre vincenti l'Olimpia ne ha avute tante, rispettando il DNA del club, ha provato a costruirne di altre vincenti, non c'è riuscita. Quest'anno è stata potenziata per vincere. Però insomma Siena secondo me resta ancora lì, ancora un know-how superiore. Però io ieri ho fatto una battuta guardando Portogallo-Italia, insomma, se il Portogallo è partito in queste qualificazioni per poter partecipare agli europei dell'anno prossimo, l'Olimpia li vince gli europei dell'anno prossimo, ecco, diciamo così. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a Stefano Valenti. Vi do due notizie di mercato, tanto per cambiare. Allora, Borriello va al Genoa, qua si dà per fatta, trattativa sbloccata, Preziosi ha definito anche gli ultimi dettagli, e Girardino va al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto già fissato a 1,5 milioni di euro. Sto leggendo in questo momento Fiorentina su Babel. eccetera eccetera, il resto sono abbastanza ancora chiacchiere. Però a quanto pare con Berbatov che va verso il Tottenham, Gilardino va al Bologna e Boriello torna al Genoa. Domenico, provincia di Cremona. Sì, buongiorno. Buongiorno. Una domanda, spero di non, no, mi sono collegato un quarto d'ora fa, quindi sì, spero di non rifare una domanda già fatta. Per quanto riguarda appunto i talenti o gli acquisti che ti vogliono fare, l'Udinese qual è il suo, diciamo così, diciamo punto di forza, e gli osservatori chi sono questi? Cioè, nel senso, chiunque non potrebbe andare e avere delle persone, diciamo, qualificate. No, allora, l'Udinese ha un'organizzazione molto capillare e precisa di scouting dei giocatori, è difficile spiegarli in poche parole, però ha un'organizzazione che parte da Udine, una centrale operativa dove ha molti osservatori che tengono monitorate le partite dei vari campionati, ha una rete di scout molto capillare in tutto il mondo, è un'organizzazione molto complessa. È chiaro, è replicabile da chi abbia tempo, voglia, quattrini, interesse, eccetera, però è un'organizzazione non banale, ecco, quindi non, così come non sono banali le scoperte né casuali le scoperte dell'Udinese. Ernesto da Bari. Sì, buongiorno a lei, agli ascoltatori. Buongiorno. La mia domanda breve è sulla Roma, in particolare sulla cessione, diciamo il subprestito, una sorta di subappalto di Bojan al Milan. Sì. E in particolare le chiederei qual è stata la logica, perché se per risparmiare un ingaggio da 1,8 milioni mi pare che la Roma di soldi ne abbia spesi, e forse questo... Non mi sembra poi così. Ma guardi, così, la logica è che probabilmente Zeman non lo riteneva così indispensabile. Che... Ma spero allora che la vogliano sostituire con un altro, perché che stiamo ancora aspettando, perché di fatto la Roma adesso ha un attaccante lì da quella parte in meno. Tra l'altro, la Roma bisognerebbe di un centrale, di un terzino destro, cosa che invece per ora mi pare abbastanza scoperta. Ecco, questa sì, è la mia domanda. Però vede Ernesto che domenica entra un ragazzino che non so se lei e quanto lei conoscesse bene, e risolve comunque una partita, quindi vorrei conoscere meglio, e capiterà con l'andare del campionato, di quali risorse effettivamente dispone Zeman dal punto di vista dei giovani che lui è così bravo a forgiare. Quindi se hanno ceduto Bojan evidentemente è perché non c'era l'esigenza di un giocatore di quel tipo, che comunque ha le sue pretese di giocare, richiede un certo numero di minuti, eccetera eccetera, quindi credo che le ragioni siano quelle. Luca, provincia di Reggio Emilia. Buongiorno signor Genta, intanto faccio complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo porre un interrogativo e una sua opinione sulla mia riflessione. L'interrogativo è sulla Juventus. Io sono juventino e non la vedo così tanto favorita quest'anno per lo scudetto. Perché così pessimista? Perché? Perché la mancanza appunto di questo fantomatico top player, che in realtà poi è un attaccante da 20 gol. E torniamo sempre lì, sì. Cosa? No, torniamo sempre al top player. Ci farà sentire molto di più dell'anno scorso. Quest'anno io sabato sera ero allo stadio, ho visto una squadra che non soggiogava l'avversario come faceva l'anno scorso. La moda di gioco richiesta a una squadra che di fatto è senza attaccanti da 15 gol, quindi un attaccante che in qualsiasi momento può segnare, richiede almeno una decina di occasioni a partita. Quest'anno la Juventus con un doppio impegno europeo, con un Pirlo che una settimana bene, una volta ogni due, chissà potrà garantire questo, non ne sono convinto. Ma io credo che... Beh, Luca, però la Juventus mi sembra che a centrocampo si sia coperta egregiamente con i giocatori che lei conosce. È chiaro che il difetto principale della Juventus dello scorso anno era quello di non avere il giocatore in grado di risolvere da solo con un colpo le partite più difficili. Probabilmente non ce l'ha neanche quest'anno, però è il livello della concorrenza ad essere scesi in modo evidente, dunque per me resta la grande favorita per lo scudetto. Poi ogni pronostico è fatto per essere sbagliato. Grazie a Giorgio Rucchi in redazione e Carmelo Lauricelli in regia. Domani c'è Giovanni Capuano dalle 5 alle 6, così come domenica. Ci sentiamo lunedì con qualcosa, anzi molto di nuovo. Ciao a tutti.